Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Il vero tourbillon per me inizia questa mattina, a quest'ora, e terminerà questa notte alle 23. Oggi mi occuperò di pubblicità, tutta la mia giornata sarà dedicata alla pubblicità. Anzi, nello specifico, sarà dedicata a quel senso di felicità, di allegrezza, di leggerezza, di fuga dalla realtà che ispirano gli spot pubblicitari. O perlomeno, a qualcuno ispirano, a qualcuno a meno. Io sono della terrificante generazione che amò la mucca Carolina e quindi difficilmente potrei essere commosso dalle nuove pubblicità. Il tempo segna inesorabile la differenza fra me e fra i publivori che questa notte si riuniranno famelici al Teatro degli Arcimboldi e staranno a guardare spot su spot, si pasceranno di ciò che viene comunemente inteso dalla mia generazione come l'intermezzo in uno spettacolo che non vorrebbe essere interrotto. Io, tanto per confidare sull'aiuto di chi mi ascolta, oltre che questa mattina in cui mi auguro di avere la vostra attenta partecipazione, vorrei soprattutto questa notte dalle 21 alle 23, io sarò davanti a questo microfono dalla stazione radiofonica di Radio 24 di Via Monterosa e seguirò a tempo reale con Marta Cagnola, che sarà dispersa tra il pubblico e tra i pubblicitari, tra i publivori, tra gli affamati, fra coloro che si asterranno e coloro che in realtà si lasceranno andare alla bulimia del pasto pubblicitario, e vi racconterò cosa accade in quella notte. Ma in cosa potrà essermi di supporto il pubblico, a cominciare da questa mattina? E in cambio prometto che vi darò dei succosi biglietti per la notte dei publivori. Ho in mano 8 preziosissimi biglietti, dei biglietti che ognuno vale 2, quindi potrete portarci l'amico, il partner, l'amante, il marito per consolarlo, la moglie una volta tanto per portarla fuori e non lasciare che si mummifichi dentro casa. Ve li darò a quelli che di voi riusciranno a coniare il miglior spot su se stessi, che però deve ispirare felicità, deve ispirare allegrezza. Non voglio nulla di depresso, nulla terrificante questa mattina, riferito alla depressione, riferito ai sensi di disfatta, all'abisso che stiamo lambendo tutti, perché la pubblicità nasce in realtà per creare una realtà parallela nella quale noi dobbiamo proiettarci per la gioia, naturalmente, del marchio, del prodotto, dell'azienda che ci permette di avere questo baluginio in una realtà parallela. Io ricordo che negli anni dal dopoguerra in poi, che sono gli anni in cui si formò il mio senso estetico, la pubblicità rappresentava veramente il punto di arrivo, il target possibile di ogni famiglia italiana. Soprattutto attraverso quel metafisico spazio mai troppo rimpianto che fu Carosello, noi vediamo il mondo come dovrebbe essere, se noi poi anche avremmo potuto farcela come ce la facevano tanti, con le belle cucinine di formica americana, con quelle belle mamme col grembiulino che stanno lì felici del loro ruolo subalterno di casalinga, gratificavano gli uomini attorno a loro con il fatto che avessero le scarpe con il tacchetto, anche cucinando, la camicetta con i volant bianca, la gonna attillata nera, erano vestite da mezzasera come si possono vestire oggi le impiegate quando fanno il cocktail d'addio con una delle loro colleghe che va in pensione, quando devono arruffianarsi il loro cavo. Beh, in questo idilliaco spazio cominciavano a nascere quei surrogati di felicità, surrogati, poi la felicità è sempre basata su surrogati, che erano raccontati, concretizzati da quei mini racconti fantastici da cui nasce tutta l'espressività degli anni a venire, che erano appunto i caroselli pubblicitari. Se non congeliamo, signori miei, a schifio si finisce. Lei, per esempio, giovanotto, concilia. Mi non so, sono forestiero, per me tutto va bene, i quadrati, i triangoli, le righe per terra, tutto fa brodo, tutto fa brodo. Non è vero che tutto fa brodo. Prendo un esempio a caso da un carosello degli anni passati, degli anni 60 immagino più o meno, l'idea del brodo. A me affascinava l'idea del surrogato di brodo. Il brodo in sé era un dadettino marroncino dall'aspetto molto inquietante che riassumeva in sé tutte le delizie del pollo, della gallina, del manzo, delle coratelle, del pezzo di lardo, dell'osso buco, di tutte le cose da racchiudere in sé. Era questa sorta di cubo informe. Tutte le delizie erano da immaginare. perché erano lì concentrate. Il brodo rappresentava in quegli anni il vorrei ma non posso di chi non aveva ancora una gallina da mettere dentro la pentola. Ora al retaggio lontano mi sembra che i primi concentrati di carne del tipo furono importati proprio dai nostri liberatori. Prima esisteva qualcosa del genere, ma era sotto forma di roba da marroncina da spalmare, quindi era meno inquietante. Il condensato dentro la carta stagnola che racchiudeva la gallina, il maialino e tutto ciò che di delizioso poteva essere messo nella pentola dà l'illusione di avere una minestra fatta in realtà con tutti quegli ingredienti. Era una sorta di acquaccia giallognola in cui galleggiavano delle gocce oleose in cui venne buttata la terribile pastina. Paola Napolitani, buongiorno. Buongiorno. Avvicinati più al microfono. È una copywriter, direttrice creativa di lunghissima esperienza, ideato e realizzato un'infinità di campagne pubblicitarie, molte anche dedicata a questi oggetti della felicità condensata come appunto il brodo. Tu sei occupata di brodo, di dado. Sì. Mi sono occupata di dado in un momento in cui però era meno eroico di quello che raccontavi tu. E parliamo della fine degli anni Ottanta, c'erano due dadi, non faccio i nomi ma potresti immaginarveli, che gareggiavano per essere i più venduti in Italia. Quello per cui lavoravo io in quel momento era il secondo. Per cercare di scalfire e arrivare al primo posto, cominciammo a insinuare il dubbio che quel dado potesse essere, tra virgolette, un po' pericoloso. Che facesse male l'altro dado concorrente. Esatto, cioè che l'altro fosse non facesse bene il suo lavoro e lo facesse troppo. Il che cosa voleva dire? Che ci rendemmo conto che nelle case spesso si diceva questa cosa sa di dado, perché se si esagerava era la stigmata della povertà. Sa di dado vuol dire tu hai corretto, esatto, il sapore per dargli un'idea di qualcosa di lussuoso che in realtà non possedeva. Esatto. E allora ci immaginammo uno spot che poi girammo, andò in onda, in cui immaginammo una famiglia dove veniva usato un dado che dava talmente sapore che tutto sapeva di dado, e quindi in quella casa tutto quello che la mamma portava in tavola era a cubo, era a forma di cubo. Quando finalmente, e quindi facemmo vedere il minestrone a cubo, ah, la ricordo perfettamente, a cubo, tutte queste cose fatte a cubo, finalmente la mamma scoperse il nostro dado, che era meglio, e portò quindi in tavola un pollo che era fatto veramente come un pollo, tanto che il bambino che vedeva un pollo per la prima volta guardava il papà alla fine dicendo guarda papà, un pollo. Quindi aveva quasi un potere lisergico, era un allucinogeno il vostro dado, per far apparire un pollo dove non c'era. Sì, o per far apparire come doveva essere il pollo, tant'è vero che si diceva ecco il dado che sa fare il dado. Diciamo che sta al suo posto. Beh, la lotta di dadi è il primo assaggio che vi do per capire quanto la pubblicità in fondo ci aiuta a inventare, immaginare mondi che dovrebbero darci soddisfazione e felicità. 800 24 00 24 è il numero a cui potete chiamare da ora e dateci degli esempi simili a quelli che noi vi abbiamo semplicemente accennato, ma ne faremo molti altri, di mondi di felicità, di mondi di allegrezza, di mondi di soddisfazione, di appagamento, di lussuria che avete intravisto attraverso la pubblicità. Non voglio poi sapere se in realtà l'avete concretamente conosciuti, lambiti, attraversati. Questo non è importante, l'importante è desiderarlo. Onza, che gambe! Che gambe! Che gambe! Che gambe! Onza, che gambe! E voilà, il segreto che ogni donna sa. Ah, Paola Napolitani, le gambe associate naturalmente alle gemelle Kessler erano l'equazione più libertina permessa comunque nella famiglia italiana. Ricordiamo le coscione di queste due fantastiche gemelle avvolte in strati e strati di spessa lana per impedire poi che il desiderio diventasse realmente carnale. Non essere dei manichini viventi. Nell'evoluzione della calza femminile, la calza femminile attraverso l'epoca ha rappresentato vari luoghi dell'erotismo e dell'allucinazione comunque di modelli irraggiungibili o possibili di bellezza. Al tempo di questo spot erano ancora le donne avvolte nel collan. Sembra che la plastificazione della donna dal busto in giù rappresentasse qualcosa di moderno, di snello, di compatibile con la velocità del mondo che stava evolvendo. Poi lentamente dal collan si è passato all'autoreggente, che è diventata la forma del libertinaggio pop alla portata di tutti. Oggi le autoreggenti le mettono anche le signore che fanno le pulizie e ci vuotano i cestini qua. Non ha più questo senso di elezione. Ricordo che la mia generazione quando la donna mette la torreggente o reggicalze, era già un invito a una esplorazione possibile. Oggi nessuna mette più i collan, chi mette più i collan, soltanto chi ha le vene varicose. Ti sei occupata di articoli del genere o puoi allucinarci o farci capire, secondo te, quanto la pubblicità legata alla figura femminile oggi va molto di moda a dire che le donne sono vilipese dall'essere considerate oggetto soltanto di consumo pubblicitario. Però negli anni dell'evoluzione del mercato pubblicitario non ci si poneva questo problema. No, secondo me la figura femminile era, doveva essere la protagonista e doveva essere, e lo è ancora, dovevi mandare in onda comunque delle donne nelle quali le altre donne che guardavano si potessero volentieri identificare. C'è stata negli ultimi anni una grossa differenza, cioè mi spiego meglio, una cosa importantissima. Oggi sono entrate le donne impossibili, diciamo la verità. Esatto, sono entrate delle donne in cui è molto difficile che una ragazza possa identificarsi. Rimane comunque. Non a caso oggi sono esplose violente le anoressiche, le bulimiche, perché e quando il corpo non permette di dilatarsi o di restringersi nei termini di quel modello allucinato, scatta il cortocircuito. Esatto, però dovete tenere conto che quello che voi vedete in onda per i prodotti, soprattutto di più largo consumo, le protagoniste, le mani stesse, sono frutto di un lavoro di giorni e giorni di casting, cioè vengono fatte e chiamate tantissime donne per mettere in scena, anche soltanto per le mani, anche solo per le mani, e poi per il, se c'è bisogno semplicemente e trovi un bel viso ma le mani non vanno bene, si cerca di accoppiare le due cose, si fanno dei Frankenstein praticamente. Esatto, e questo vale anche naturalmente per le altre aree anatomiche. Potrebbe valere, ma se quando si tratta di un prodotto dove devi far vedere le gambe, dubito che riusciremo mai a far vedere solo le gambe, semmai le possiamo truccare, però abbiamo bisogno di tutto il corpo in quel caso. Mentre dicevo, per il viso il casting è importante, perché quella faccia che poi andrà in onda va scelta non solo da chi ha inventato lo spot, come possiamo essere noi, ma dal cliente. Il cliente molto spesso fa delle lunghe riunioni, si arriva a delle selezioni di tre facce di donne che possono piacere, poi magari porta a casa la cassetta, la fa vedere alla moglie e anche la moglie questo dà il suo giudizio e poi arriva alla scelta finale. Il più delle volte quello che il regista pubblicitario vorrebbe avere non è quello che poi andrà in onda. Ma è vero che il vero dilemma e la vera angoscia di voi pubblicitari è proprio il rapporto con il cliente, che si sostituisce a quello che dovrebbe essere il vostro mestiere, non si accontenta mai e quindi vanifica quelli che sono i vostri sforzi. Sì, diciamo che non è un'angoscia ma può essere un conflitto, anche perché ognuno si porta dietro un'ambizione o un timore, ultimamente da parte del cliente molto di più un timore, che è nella sua testa, ma piacerà quello che sto scegliendo a quello che è sopra di me? Ma non vi viene un senso di frustrazione? Voi studiate, approfondite, fate parte di una catena ininterrotta di sperimentazioni e di studi sull'immagine, sul contesto, sul testo e via dicendo. Poi magari, non so, la massaia moglie del vostro cliente ha l'ultima parola su tutta questa perizia, perché non è tempo buttato via? A questo punto se lo facesse fare dalla moglie, dalla zia o dalla suocera, non viene mai questa idea in testa? Viene, ma dura pochissimo per fortuna, se no smetteremo di lavorare. Manfredo, buongiorno. No, buongiorno Gianluca. Allora, ma, senti, il mio spot non è un vero e proprio spot, io sono un lampredottore. Cioè vendi la trippa? Io vendo la trippa, il lampredotto è un piatto. Sì, una cosa che io non toccherei nemmeno con le pinze, però pare che vada molto alle vostre parti. Fai male, dovresti tapparti gli occhi e assaggiare. Anche il naso, devo dire, perché la trippa bollita è insopportabile. La Firenze è costruita sui lampredotto. Comunque, visto il lavoro davanti all'ospedale. Ma tu fai panini con la trippa. Esatto. Lavoro davanti all'ospedale e quindi sono diventato un lampredottore. Cioè, vendere la trippa davanti all'ospedale, guarda, sembra quasi che hai dei rifiuti speciali e li ricicli. È terribile. Questo lo volevo fare per carnevale, far venire degli amici infermieri con i baridotti, quello del biohazard, e dire: oh, aspetta, guarda, questo è buono appena tolto. Poi c'è una curatella appena fatta. Esatto, abbiamo evitato rifare. E questo con te avrebbe fatto vendere? Perché sto pensando, sento un attimo, sì. Scusami, Paolo Napolitani, se questo venditore di panini con la trippa, dalla genialità e creatività folle, avesse fatto veramente uscire infermieri dall'ospedale con barili di rifiuti umani facendo finta che fosse quella sua trippa, avrebbe venduto, avrebbe funzionato, sarebbe stato deleterio. Secondo te no, non andava bene. Allora l'avrei comprata. Ma lui veramente, secondo me, ha trovato un nome che è più interessante, perché l'amprodottore vuol dire che in realtà quello che lui vende, tra virgolette, un po' ti cura, no? Esatto, è verissimo. Secondo me è molto carino l'amprodottore, invece. E a questa la tua idea? Sì, questa è la mia idea, infatti, anche perché poi, donna di la verità, certi tipi di attività, quelle specialmente all'aperto, oltre a vendere il prodotto, fanno anche uno psychiatric help, tipo Lucy Van Pelt. Fammi un esempio. Senti, no, sai, perché io ancora rimango con qualche perplessità. Uno che va all'ospedale, certo, va o a trovare un parente sbudellato o a farsi fare un'analisi, comunque esce con l'idea di bisturi, di bende, di dottori, di odore di formaldeide. Può venirgli voglia di mangiare un panino con la trippa proprio? Certo, quando te vedi il dolore, quando te vedi la possibilità anche della fine, è il momento in cui ti attacchi alla vita, per cui è il momento in cui attacchi... Non la trippa bollita dentro un panino, alla trippa palpitante attaccata a un essere umano, forse. Questo non posso dargli. Però a Firenze l'ha prodotto, ha una valenza comunque anche sessuale, proprio. Cioè, proprio è... cioè, cosa ci fate con questi panini? No, fammi capire. Non posso, veramente niente, tranquillo. No, però diciamo, è proprio un piacere... È un piacere profondo, perché fa parte proprio della nostra cultura. Io dissi una volta che il Duomo a Firenze è costruito sul lampredotto come fondamenta. C'è una cosa che già risale al 1200-1300. Per cui per un fiorentino uscire magari da un'analisi a stomaco vuoto e trovare un bel panino fumante di lampredotto fatto a medio comanda, lo rimette al mondo veramente. Ecco, ma come ti spieghi che questo lampredotto è rimasto un prodotto locale? Cioè, anche il caciucco hanno fatto sintetico e lo vendono surgelato e fatto in scatola. Com'è il lampredotto sotto forma di prodotto, cioè il sushi, il kebab fra un po', prodotti che vengono da latitudini lontanissime e sono diventati internazionali. Il lampredotto ve lo vendete e ve lo mangiate soltanto a Firenze? Vedi Gianluca, il caciucco surgelato è come fare l'amore con la bambola gonfiabile rispetto a che... Però piace a un sacco di gente. Vabbè, infatti vendono anche un monte di bambole gonfiabili a giro. E poi no, il problema è che fa parte di quelle tradizioni tipiche italiane, come, che so, il pane con la milza che fanno a Palermo, il pane cameuta, che è spettacolare, però lo fanno solo a Palermo. Cioè, stai elencando i miei punti di disgusto più alti. Manca il cervello fritto, poi li hai messi tutti. Disgustorama. Paola Napolitani, volevi dire qualcosa? Sì, no, volevo dire però che lui ha un prodotto che deve vendere, noi non possiamo, tu stai contestando il prodotto. Sì, ma lo faccio perché sono rompiscatole, esatto, di natura. Questo invece, secondo me, lui ha un prodotto che ha deciso di andare a vendere in un luogo dove in teoria non ci dovrebbe essere, trovando un posizionamento, come si direbbe in termini strategici, secondo me è abbastanza... Guarda, è un fubaccione, lui sa che si sta facendo in questo momento uno spot gratuito, esatto, e quindi lo seguo e lo interrompo immediatamente. Walter, smettila di sognare. Allora cosa c'è di buono oggi? Simmental. Sì, simmentalmente buona. Carne ricca, carne Simmental, talmente buona. Chi mangia più carne, più Simmental. Ecco, i miei figli non sanno nemmeno cosa sia questa carne in scatola, però ricordo che era uno degli oggetti della felicità della mia fanciullezza. Vivevo in campagna, ero pieno di galline, di polli, ammazzavamo il maiale, avevamo salsicce e tutto, quindi lontano da me usarla come ripiego. Ma quando vedevo Walter Chiari che diceva Simmentalmente buona, dicevo, mamma, vogliamo la Simmental. E mi scartocciavo questa scatoletta di roba marroncina con quella striscia di grasso gelatinoso, che era una cosa orrenda, e me la mangiavo col limone, mi sembrava di toccare vette inimmaginabili. E poi quell'altra carne, di cui non faccio il nome perché sennò questa mattina ci segano le ossa, che c'aveva quel cowboy che la pubblicizzava, che erano sempre fatte a fette, comunque le tagli sono sempre perfette, anche quella era molto buona. Ecco, la carne in scatola, che era la razione K del soldato, come mai nell'Italia degli anni 60 diventa così importante? Perché era facilmente trasportabile, dava l'idea, non so perché, di qualcosa di pronto, di buono, di fatto apposta per i tempi che stavamo vivendo. Credo che desse soprattutto l'idea del nuovo, che era possibile portare... Se eri moderno, usavi quel prodotto. Se ti ricordi, la pubblicità che andò a lungo in onda, metteva in onda la suocera. Perché la giovane sposa portava in tavola una cosa che piaceva anche alla suocera, che era buona e veloce da fare. Adesso, con i tempi che corrono, il posizionamento, la promessa di questi prodotti deve essere tutt'altra, perché la gente ha paura delle cose. Certo. Esatto, si è passati alla parte opposta, per cui la cosa in scatola la scatola la devi nascondere. Però a quel tempo si immaginava, visto che stiamo facendo un excursus della ricerca della felicità, che la felicità fosse nel tempo guadagnato, nella sottrazione del tempo rubato alle incombenze familiari. La donna non era più schiava della famiglia, non doveva più passare 6 ore a bollire la carne per fare il minestrone o per fare la passata, capito? O fare il pomodoro con la macchinetta, sbucciarlo, bollirlo, tritarlo e via dicendo. Aveva un tempo fantastico da donna imprenditrice, la donna semplicemente voleva viversi la sua felicità, quindi la scatoletta risolveva il problema. Gli diamo 2 scatolette, si dice così, la risolvete con 2 scatolette. Mio padre diceva: quella lì a casa da 2 scatolette ha risolto il problema, come indicazione di donna già sul baratro della perdizione. Però gli veniva dato poi l'imprimatur della suocera, perché ti ricordi che in quegli spot poi arrivava la suocera e diceva: ah, però brava mia nuora che dà questa scatoletta. Che era il segno di modernità, stare al passo coi tempi. Noi abbiamo fatto una trasmissione sulle donne della tecnologia, ha chiamato una signora di 76 anni che ancora giocava online con il bridge. Il segno della modernità era conoscere la macchina per giocare a distanza. Allora il segno della modernità era accettare il pasto compresso, simulato, allucinato attraverso la scatoletta. 800240024, tra un istante dopo le informazioni della borsa. Se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Noi siamo i giovani, i giovani, i giovani. Con Fiuggi, 10 anni di meno. L'acqua di Fiuggi vi mantiene giovani, perché elimina le scorie azotate disintossicando l'organismo. Fiuggi, acqua viva, gradevole e leggera, vi mantiene giovani. Noi siamo i giovani del surf. Io non immaginavo da bambino, quando avevo questa pubblicità, che sarei diventato vecchio, non lo immaginavo. Ma adesso che sono vecchio non immagino quale sia il rapporto fra un'acqua che facesse fare la pipì e il rimanere giovani. 800240024. Stiamo parlando dei mondi paralleli, delle impercettibili e impalpabili fessure che si dischiudono ogni tanto verso la felicità e che la pubblicità ci fa vedere, ci fa intravedere, ci fa immaginare. E noi ci buttiamo dentro a capofitto, sperando dall'altra parte ci sia quel mondo che la pubblicità ci promette. Molte volte c'è, in realtà probabilmente per qualcuno c'è o non c'è mai, l'importante è buttarsi, l'importante è provarci. Io sto faticosamente iniziando la mia maratona sulla pubblicità, perché questa inizierà questa notte, la notte di Publivori al Teatro Arcimboldi qui a Milano. Ci saranno dei maniaci divoratori di pubblicità e noi siamo la radio ufficiale della pubblicità. Anzi, ho manciate di biglietti per questa notte. Voi milanesi che ambite ad andarci, chiamatemi, mi farete in cambio un piccolo spot autopromozionale. Poche parole, poche righe per dimostrare che voi siete una porta aperta verso la felicità. Avrete biglietti, ci portate chi volete, ne ho 8. Se nessuno chiamerà, poi li regalerò alle prime persone che conterò per strada. Darò degli sconosciuti questi biglietti, farò la loro felicità. Magari a un barbone che dorme nei cartoni qui davanti, darò i biglietti per la notte di Publivori, non so quanto ne sarà pagato. Ho qui in studio con me, mia guida e mia piacevole compagnia, Paola Napolitani, copywriter, direttore creativo di lunghissima esperienza. Ha messo le mani in un'infinità di luoghi che vi hanno dato forse felicità, l'hanno data a voi, alle vostre mamme, lo daranno ai vostri nipoti. Questa idea dell'acqua legata alla giovinezza, io spesso ho uno spot che incombe anche sulla mia trasmissione di una nota Miss Italia che fa tanta plin plin. Sono passati decenni, ma l'idea della giovinezza, della bellezza, della felicità è molto legato alle nostre attività, diciamo, escretorie, è così. Sì, è così. Quello che mettiti davanti al microfono, mi stupiva ascoltando prima è come allora avessero il coraggio, perché allora ai tempi della Fiuggi ero anch'io, ero troppo piccola, di parlare di scorie azotate, che doveva essere una parola misteriosa per sarebbe chiunque. La pipì sarebbe la scoria azotata. Sì, però capisci come erano più... Oggi la chiamano secondo plin plin. Secondo me, esatto. Allora scientifico, più, oggi evocativo. Sì, molto più coraggiosi e interessanti che non plin plin, perché secondo me plin plin all'inizio piace, ma poi è proprio plin plin. Ma poi è un sinistro sgocciolamento. Se uno fa plin plin deve andare dal dottore, ha dei calcoli nei reni, qualcosa del genere, plin plin e finisce lì. Non è possibile, non dà l'idea di salute. Mi permetto di fare una critica estetica allo spot, non permettendo di mettere in dubbio le facoltà dell'acqua che produce la plin plin. Perché veramente chi è che dice plin plin? Si dice ps, ps, ps, no plin plin. Quelle sono delle invenzioni e credo che ci sia dietro, immagino, qualche disgraziato mio collega che ha lavorato ore per inventarsi un modo per dirlo che non fosse scorie azotate. Con grossi problemi alla prostata, naturalmente. Perché... non lo so. Fabrizio da Cuneo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Eccomi qua. Allora, io sono... essendo camionista ascolto un mucchio di pubblicità involontariamente, perché quando seguo un programma... E ti rendono felice? Ce ne sono certe che mi danno un sacco di nervoso. Ad esempio, senza fare nomi, se no mi segano le gambe, fammi no, capire. C'era uno scemotto lì che doveva fare i punti del carburante e allora il figlio voleva andare in bicicletta a trovare la fidanzata e lui gli fa... Ma no, come in bicicletta che arrivi tutto sudato? Prendi pure la macchina, prendi pure la macchina. È il padre che tutti vorrebbero, scusa. Ma scusa un attimo, adesso la prima preoccupazione degli italiani è il traffico, non l'ha detto oggi il tuo collega lì della stampa. Certo. Ma come si può andare a fare un messaggio controcorrente? A me, sinceramente, la persona che... Ma se devi vendere i punti benzina, è chiaro che devi fare questo messaggio controcorrente. Allora nemmeno le pubblicità delle automobili che vanno velocissime quando ci sono dei limiti di velocità, che volano, che saettano. È un mondo illusorio quello della pubblicità. Deve essere esornante, gigantesco, pantagruelico. Non può essere un mondo reale, sennò è tristissimo. Un'altra che mi ha dato parecchio fastidio... E sono quelle ossessive, quelle proprio per malati di mente. Quest'estate, no? Per vendere più prosciutto, dicevano 25 volte prosciutto, prosciutto, prosciutto. Poi ti diceva anche di che cosa? Prosciutto, ma si può fare una pubblicità così ignorante, così senza fantasia proprio? E beh, poi te la sei ricordata? Me la sono ricordata, ma gli ho detto a mia moglie non comprarlo più quel prosciutto perché mi sta troppo antipatico. E beh, tua moglie di nascosto invece lo comprava, consumando sì, un adulterio prosciuttesco che tu nemmeno lo immaginavi. Paolo, esatto. Napolitani, il senso di disgusto verso una pubblicità in realtà dà un legame stretto con il prodotto. Beh, sarebbe meglio che non fosse un legame di disgusto. Però te la ricordi. Però, ecco, questo è il problema, è che te la ricordi, e il problema quando ne inventi una è che non è facile azzeccare il gusto di tutti. Allora, è possibile, per far contenti tutti, che alla fine si dica qualcosa di un po' piatto, che si rischia di non far ricordare. Al contrario, se vuoi che la gente se la ricorda, si può rischiare quello che sta succedendo appunto al nostro ascoltatore, che alla fine gli dà fastidio. In particolare poi è difficile fare la pubblicità radio, mi immagino che lei si riferisse a quello che sente alla radio, e alla radio dovete tener conto che possiamo usare solo la voce, solo l'audio, solo i suoni. E mi ha detto nulla, scusa. No, infatti, però è molto più difficile. È molto più difficile perché si può annoiare. È molto più difficile, ma però rimane molto impressa la pubblicità radiofonica. Sì. Rimane molto impressa. È un lavoro diverso, mi rendo conto che è totalmente diverso. Ma chi ascolta la radio, chi è attento ascoltatore della radio, ha dei flash immediati quando sente degli spot che funzionano. Pronto, chi è? Sono io, Biagio, il tuo topolino grigio. Non mi disturbare, sto guardando la pubblicità in televisione. Oh, che comunicativa, i pubblicitari. Oh, la tua è una fissazione, ma si può sapere che vuoi? Voglio l'ingegno vario del pubblicitario, che sia sapone o rum, ogni suo lancio è un boom. Ah sì? Parola di Biagio, adesso faccio un plagio. Permesso? Avanti. Questa mi sembra di immaginare che fosse la reclame di una caramella. Il protagonista di questa pubblicità era un pubblicitario che per sedurre la sua donna usa appunto la stessa arma che usa per vendere un prodotto, per reclamizzare un prodotto. Lo trovi plausibile, Paola? Sì. Sì, qui però secondo me c'è un'altra cosa che è molto forte, che è l'uso di quello che si chiama jingle, cioè il cantato, la canzoncina che si inventò ai tempi di Carosello, era appunto la base musicale di questo dove si parlava di caramella, e che poi, nonostante siano passati tantissimi anni da allora, stiamo ricominciando ad usare. Poi mi ricordo che Voglio la caramella che ti piace tanto era usato con doppi sensi osceni, la caramella che mi piace tanto, mi dai la caramella che mi piace tanto, era entrata molto l'idea, anche perché poi c'era una testimonial molto avvenente, mi sembra di ricordare che era una showgirl dei tempi, e l'idea caramella che mi piace tanto, con succosa femmina da poter assaggiare, assaporare, era molto vicina, mi ricordo che c'era questa associazione, però in quegli anni era molto più subliminale, allo stesso tempo anche molto più vigliacca. vigliaccamento scena. Oggi si crea una sorta di vivacità e esternazione di nudità, di carni, di aggrovigliamenti, di ambiguità, di esseri che ormai hanno attraversato tutti i possibili generi e sono ritornati in tutti i possibili generi. Non c'è una sorta di ingolfamento di immaginario erotico nella pubblicità? Secondo me sì. Se devo essere sincera, credo che sia eccessivo, talmente eccessivo che alla fine non viene neanche più notato. Siamo sempre lì, si facevano le cose. La più grande difficoltà nel fare uno spot, oggi come oggi, a causa del sovraffollamento di immagini, di tutto quello che volete, è cercare di bucare, fare in modo che ti vedano e che tu sia diverso dagli altri. Allora, se all'inizio fare vedere un bel seno poteva essere una novità, adesso è inflazionato. Secondo me faremmo prima a far vedere un seno normale, se non addirittura un brutto seno, ma sono sicura che un cliente poi alla fine ci direbbe di no, perché non si può mai fare vedere il brutto. Senti, come ti spieghi invece questa sorta di elemento di ambiguità? Oggi i testimonial di molte pubblicità non capisci bene a quale genere appartengono. Si allarga il mercato, si fanno prodotti che vadano bene sia per maschi che per femmine, o si gioca molto su questa sorta di politicamente correttissimo e modaiolo idea dell'ambiguità, del passaggio, del genere transeunte. C'è una scelta ben precisa, perché oggi i modelli e le modelle della pubblicità devono avere sempre dei segni di profonda ambiguità. Io, come te lo spieghi te l'altro secondo me? Io credo che dietro non ci sia tutta questa ricerca intellettuale che tu ci vedi, perché probabilmente tu hai sei più un critico e quindi hai degli strumenti per guardare che non sono gli stessi di chi guarda uno spot, ma per forza, ed è giusto che sia così, cioè chi subisce una concatenazione di spot che durano una batteria di 3 minuti non riesce a fare tutto questo ragionamento che tu fai e si cerca di andare in onda con quello che, come ti dicevo, un po' si omologa a tutto il resto. D'altra parte le trasmissioni che precedono e seguono gli spot sono fatte loro per prime di questa gente. Devo dare la linea alle informazioni del traffico, poi vedo che è un mucchio di ascoltatori che attendono e nell'ultima parte della trasmissione darò spazio soltanto a loro. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. E che c'ho scritto Giocondor? Ci penso io. Ecco il fumo del... Il gigante buono delle merendine, chi è che non se lo ricorda, con Joe Condor. Allora le pubblicità erano molto legate al mondo infantile, i bambini andavano allettati di quelle fantastiche merendine che li rendeva così buoni e paffuti. Mi stanno arrivando molti sms, io non li guardo mai gli sms, li guardo qui a Milano perché ce l'ho esposto in maniera molto più limpida. E molti sono adoratori della Ferilli che dice: beato chi solo fa il sofà, e farsi il sofà o farsi la Ferilli sul sofà. E c'è un insieme di concatenazioni di pensieri galeotti che eccita molto gli ascoltatori. Un altro ascoltatore mi chiede: il primo criptico spot Chi Vespa Mangia le Mele, ma non era tanto criptico, le mele erano associate al frutto proibito che si portava sul sedile posteriore della Vespa, anzi sulla parte posteriore del sedilone della Vespa, chi avesse avuto questo fantastico scooter. Immaginate che allora le alcove viaggianti erano i sistemi più facili per vincere la ritrosia delle fanciulle. Sui motorini si metteva un plaid scozzese legato con un elastico, e chi aveva il plaid legato sul sellino del motom, come dire, ho le chiavi della mia, del mio scorticatoio a portata di mano, e montano lì erano tutte contente. Ho in studio, ricordo, Paola Napolitani, che una simpatica copyright, direttore creativo, che si è occupata per pubblicità in maniera concreta e reale. E mi dicevi, Paola, prima che una delle cose più divertenti sono i casting, soprattutto maschili, che fate in questo periodo. Perché? Ma perché una volta si passava ore e le donne a cercare donne e gli uomini erano sempre figure comprimarie, soprattutto per i prodotti di largo consumo. L'importante era che ci fosse un uomo a tavola, però non importava che parlasse, poteva anche stare zitto, doveva semplicemente apparire, avere una faccia credibile per far capire che le protagoniste mamme che lavavano, cucinavano, avevano un marito. Adesso l'uomo diventa fuco più... e basta praticamente. Copriva un ruolo e rassicurava. Adesso ci sono invece dei papà o dei maschi o dei ragazzi. Devono parlare, devono fare di più. Allora, credetemi, è la cosa più difficile. Cioè, se è facile trovare una uomini donna, che sappiano parlare. Trovare uomini che abbiano la mia un bel aspetto e che sappiano anche recitare, essere naturali, e è molto ma molto più difficile, perché poi alla fine sono più timidi o sono modelli, oppure la figura più difficile da trovare è il padre 35-40enne. Il padre quarantenne, se pensate di avere un bel aspetto e volete andare in onda, presentatevi ai casting, perché secondo me avete un futuro. C'è una richiesta di padri 35-40enni. C'è una richiesta di figure che possano essere il padre ideale. Perché diciamo che il modello base non è credibile come padre, potrebbe esserlo come zia, ma come padre nessuno lo prende sul serio. Come zio, vuoi dire? Sì, ma mi è sfuggito un lato. Però vedendo diciamo la rappresentazione, sì. Non è discriminatoria questa battuta, però in effetti è vero che la figura maschile intesa nel suo ruolo tradizionale di padre è lievemente sfumata, ha un'infinità di accezioni belle, fantasmagoriche, divertenti, ma è chiaro, quando tu cerchi un padre tranquillo, rassicurante, lievemente incline a mantenere un suo ruolo un po' legato più alla tradizione paterna, è molto difficile. Sentiamo qualche ascoltatore, come ho promesso. Anzia, provincia di Savona. Anzia, pronto? Sì. Eccola, Anzia. Pronto, sì. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Io volevo raccontare della mia esperienza, della scoperta della crema spalmabile. Posso dire il nome o no? Sì, la dica. Sì, qual era? Della Nutella. Ah, pensavo una crema per il corpo. E dove se la spalmava? Pensi un po', guardi, quando avevo 12 anni l'ho scoperta sotto i portici nel paese dove abitavo, non c'era ancora la pubblicità, comunque non avevo la televisione, non sentivo la radio, a parte che per i giornali radio, e quindi ho scoperto questa Nutella e subito l'ho mangiata sotto i portici del mio paese, impasticciandomi bene. È stata una scoperta favolosa, perché prima l'unica cioccolata che mangiavamo erano quella specie di cose di surrogato, bianche, nere di cioccolato da un gusto... Sì, ho capito, quelle cose bianche e nere vende al droghiere. Quindi la Nutella l'ha resa felice. Lo ricorda. E l'ho scoperta lì. E questa... Beh, gliel'hanno applicata sotto i portici, però non è che lei l'ha scoperta grazie alla pubblicità. Non l'ho portata a casa. Io la Nutella l'ho mangiata all'istante. Appena uscita dalla latteria l'ho mangiata così, addirittura con un dito sporcandomi anche. Beh, quello è il vero gusto, di mangiarla. È il vero gusto, E come dicevo lì alla redattrice, guardi, questa mattina ho commesso lo stesso peccato di gola, perché ora questo stesso prodotto è venduto di nuovo in piccole vaschette. E lei si sta ciucciando il dito mentre parla con me. Peccato, uno può anche permetterselo. Vabbè, senso, quei peccati che non provocano la vendetta e non l'apertura della porta dei cieli e delle fiamme dell'inferno. Cioè, sono di peggiori, ma anche di più piacevoli. Giuseppe, da Cesena. Buongiorno. Sì. Senta, io ho 40 anni, no? E faccio questa premessa, nel senso che io adoro la pubblicità, perché trovo chi fa la pubblicità sono veramente dei geni. E ho visto, da quando sono piccolo, io mi ricordo le pubblicità della Lagostina del Filo, della Carmensita, poi man mano che andavano avanti le pubblicità erano le pubblicità... Beh, sta citando degli esempi da musei contemporanei ormai meravigliosi, ma erano dei grandissimi artisti, erano molto di più che un pubblicitario, erano dei poeti della rappresentazione grafica. Esatto, erano delle cose che per me erano stupende, io me le ricordo ancora. Allora erano in assoluto, lo sono tuttora, vengono studiati nelle università quegli esempi. Cioè, a me facevano impazzire, come anche... Poi ho visto l'evolversi della pubblicità, tipo quando è uscito Nick Cayman che faceva la pubblicità dei Levi's, che facevano queste pubblicità, e quindi ho visto tutta questa serie di pubblicità che si sono evolute in maniera anche veramente impressionante. Adesso ci sono pubblicità che vanno dall'orrido allo stupendo, cioè vale a dire, adesso ultimamente non faccio nomi assolutamente, però c'è una pubblicità che stanno facendo in questi giorni della Bresaola, che fanno vedere che viene venduta da un pusher, no? Da un proprio, sembra un pusher quello che però vede, in effetti nel messaggio forse non proprio edificante, la signora si mangiava la Nutella, la considerava un peccato da consumare sotto i portici, e si metteva in bocca con la Nutella e se la spalmava come avesse compiuto la più innominabile delle lussure, che non poteva dire a casa, tanto che la lasciava fuori, non la riportava a casa, come fanno i ragazzi con certi accessori di cautela di incontri fisici, che non li porta mai a casa eppure che glieli scoprano i genitori. Riccardo da Ascoli. Sì, buongiorno. Sì. Ascolti, io volevo provare a dare uno spot per provare a vincere i biglietti. Ah, guardi, non l'ha voluto nessuno. Sono pronto a dargliene tanti. Dica subito lo spot. Vediamo se riusciamo. Riccardo Ricci, la soluzione ai tuoi capricci. Riccardo Ricci, la soluzione ai tuoi capricci. Ma che tipo di soluzione dai ai suoi capricci? Io do soluzioni a tutte le persone con un grande sorriso, cioè cerco sempre... Secondo me è moscia, però visto che manca un minuto, abbiamo un sacco di biglietti, Paolo Napolitani. No, non la trovo moscia. Non la trova, bene? Se dice il copyright. Se lui veramente... Quanti se biglietti... lei veramente mantiene la promessa, non è moscia. Quanti biglietti ti servono, Riccardo? Due, la mia ragazza, sono in viaggio da Ascoli per Milano. Avrai biglietti, sarai contattato fra un istante e avrai biglietti. L'ultimo, Luigi da Milano, poi chiudiamo. La ringrazio. Luigi da Milano. Sì, buongiorno a tutti. Hai 20 secondi per dire lo spot e allora, forse vincere. Allora, velocissimo, probabilmente non se lo ricorderà più nessuno, è uno spot di 50 anni fa che parlava di polveri per acqua, per farla diventare... Certo, Carmen, ricordo benissimo, era la mia gioia. Hai uno spot su di te che ti do i biglietti, no? Scusa? Niente, e non hai capito, chi non capisce a me è ormai fuori dal gioco e viene segato. Noi ci sentiamo questa sera alle 21, dalle 21 alle 23 continueremo in questa folle maratona attraverso le pubblicità dei nostri sogni. Grazie Paolo Napolitani, a questa sera. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.